Linee d'ombra di Matteo Caccia. Non era possibile attraversare da Piombino ad Olbia per uno senza il camion, cioè senza che lo dovesse fare per lavoro, era impossibile. Vedi quella nave, mi dice, è una nave merci, partirà all'una di stanotte per Olbia. Tu ti presenti all'imbocco delle rampe di carico e dici che ti manda il comandante Persini. Buon viaggio, ragazzo. Salutaci la tua ragazza. Storie di navi cargo e di traghetti maledetti in una puntata che si intitola Barra dritta. Questo che avete sentito forse lo conoscete, forse lo avete già ascoltato in altre occasioni. È un audio che arriva dalla notte del 10 di aprile del 1991, 29 anni fa. Ed è un audio che si sono scambiati alcuni capitani di navi che si trovavano in rada a Livorno e la capitaneria di porto di Livorno o Compamare Livorno, che sono, diciamo, le persone che si occupano della sicurezza in mare, in rada, nella rada dei porti, in quel caso nella rada del porto di Livorno. Il 10 aprile del 91, cioè 29 anni fa oggi, è una data storica, è una data drammatica nel calendario della marineria italiana, o comunque delle grandi tragedie di questo paese, perché in quella data morivano un numero di persone spropositato per quello che è accaduto, cioè per una nave che stava partendo, un traghetto che stava partendo da Livorno per andare ad Olbia. Si è incendiato, ha preso fuoco, sono morte 141 persone dopo uno scontro con una nave che si chiamava Agip Abruzzo, una petroliera che si trovava in rada. Quella è una storia che non è ancora risolta oggi, è una storia che a 29 anni di distanza non ha un colpevole, non ha una narrazione chiara, non si capisce esattamente per quale motivo non siano arrivati i soccorsi in tempo utile. I soccorsi sono arrivati dopo 40 minuti, in realtà. Qualcuno si è accorto della presenza di questa nave, era la Moby Prince, che era letteralmente completamente in fiamme. Vi racconteremo tra poco quella storia, la storia che abbiamo trovato sul sito mobyprince.it, che è un sito che è gestito dall'associazione 10 aprile, che è una onlus creata dai familiari delle vittime. Ci sono state interrogazioni parlamentari, ci sono state diverse tribunali chiamati in causa, e c'è ancora in questo momento in corso una causa contro lo Stato per capire che cosa è accaduto. Vi racconteremo quella storia nel giorno che la ricorda, nel giorno che la ricorda a 29 anni di distanza, quindi l'anno prossimo saranno 30 anni, immagino che probabilmente accadrà anche qualcosa di più, e vi faremo sentire anche le voci, oltre a quelle che abbiamo appena sentito, altre voci che arrivano da quella notte in mare. La prima storia invece è una storia molto più leggera, che non si discosta tanto da un punto di vista, diciamo, geografico, perché si ambienta tra l'isola d'Elba, Piombino, che dista pochi chilometri da Livorno, e la Sardegna, e parla di una nave, parla di un giovane uomo che è in vacanza e decide di andare a trovare la propria fidanzata in, si direbbe oggi o si direbbe allora, non so, barca stop, cioè facendo autostop e finendo su un traghetto, nemmeno su un traghetto, su una nave che incredibilmente lo porta direttamente a casa della fidanzata. Si chiama Barra dritta la puntata di oggi, benvenuti a Linee d'ombra. Estate 1986, all'epoca avevo 17 anni e la scelta della meta della vacanza aveva una certa importanza. Dopo accurata cernita delle opzioni e relative attente valutazioni, la scelta è finalmente fatta. Isola d'Elba, in campeggio con Marco e Fabrizio, che io chiamo Patrick da sempre, senza sapere il perché. Viaggio in treno fino a Piombino, traghetto fino a Portoferraio, poi autobus fino a Marina di Campo, dove pare ci siano campeggi da urlo. La prima settimana scorre tranquilla. Giorno in spiaggia, sera in qualche pizzeria o paninoteca e poi due chiacchiere prima e dopo essere entrati in tenda. Io con Marco e Patrick mi trovo bene. Sono amici simpatici ed affidabili e andiamo veramente d'accordo, mai un dissapore o cose simili, ma ad un certo punto, non so spiegare il perché o il per come, a me inizia a balenare nel cervello una certa idea. E qui devo aprire una parentesi. In quell'estate dell'86 io avevo pure una ragazza. Se vogliamo dare il nome giusto alle cose, diciamo che era la mia morosa e lo era addirittura da un anno. All'epoca questo amore non era mai stato, almeno per me, un amore di quelli viscerali e neanche di quelli meno che viscerali e nemmeno di quelli meno che viscerali. Diciamo che in quell'anno non era casualmente passata nessun'altra ragazza interessante davanti ai miei radar, diciamola così. Il motivo per cui avevo corteggiato Simona era il suo meraviglioso fondoschiena, ma per quanto forte questa motivazione non aveva mai fatto scoccare la scintilla dell'amore infuocato. Non era il grande amore come ce ne erano stati altri. Poi la cosa che fa ridere è che in realtà poi è diventata mia moglie e lo è tuttora. Non ero di sicuro un Don Giovanni, ma anche se, ma un po' di, cioè, no, sempre destato interesse nelle ragazze. Io poi non ero uno super femmina, quello di non sono mai stato, però ero uno che comunque attirava interesse, no? L'ho sempre attirato. In quell'estate dell'86, Simona, che aveva 16 anni, era al mare in Sardegna con i genitori, la sorella ed i nonni. Proprio i nonni possedevano una casa a Costa Paradiso, nel nord della Sardegna, e tutte le estati ospitavano la famiglia di Simona per tutto il mese di agosto. Lei, da buona sedicenne, si sentiva in stato di detenzione, isolata dal mondo con genitori, nonni e una sorellina di 8 anni attaccata come una zecca. Ma andare in vacanza con amici o eventuali morosi era fuori discussione, quindi se n'era fatta una mala ragione. Tornando all'Isola d'Elba, ad un certo punto, così, senza un motivo preciso, inizio a capire che forse un pochino in realtà Simona mi manca. Forse più di un pochino, e la voglia di rivederla inizia a crescere. Avete presente quei filmati in time-lapse in cui un germoglio buca il terreno ed inizia il suo viaggio verso il cielo? Ecco, una sensazione simile. Così, una mattina mi sveglio e dico a Marco e Patrick: «Oggi, ragazzi, pensavo di andarmi a fare un giretto. Quasi quasi vado a trovare Simona». Immagino che compresero la determinazione celata in quella frase. O forse no. Ma di fatto reagirono come se avessi detto loro che andavo a prendere un ghiacciolo al baretto del campeggio. Detto fatto, zaino in spalla e si parte, con il mio mezzo di trasporto preferito, l'autostop. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. It would make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. Chiariamo subito una cosa. Pretendo massimo rispetto per la memoria di questo meraviglioso e purtroppo estinto mezzo di trasporto. Ancora oggi, dopo più di 30 anni, mi vengono le lacrime agli occhi pensando alle emozioni che si nascondevano dietro, o meglio, dentro ogni tratto fatto in autostop. Arrivo a Portoferraio, prendo il primo traghetto disponibile e arrivo a Piombino. Lì, al porto, senza avere idea delle rotte da e per Piombino, comincio a vagare da una biglietteria all'altra per poi scoprire che no, non c'è nessun traghetto che vada a Piombino in Sardegna, bisogna arrivare a Civitavecchia. Poco male, penso io. In autostop ci impiegherò solo qualche ora in più. Nessun problema. L'unica complicazione è che siamo già nel tardo pomeriggio e devo decidere se partire subito, pensare a come passare la notte e varie ed eventuali. Mentre faccio tutti questi pensieri, seduto su un marciapiede del porto, mi si ferma davanti ai piedi una volante della polizia, dalla quale si sporge un agente che probabilmente, più impietosito che preoccupato, mi chiede: «Cosa ci fai qui da solo?» «Ma niente di speciale», dico io. «Volevo andare in Sardegna dalla mia ragazza, ma ho scoperto che da qui non partono traghetti per la Sardegna, quindi mi tocca andare a Civitavecchia». A volte la vita è incredibile e ancora oggi mi chiedo come possa essere accaduto tutto ciò. Fatto sta che il poliziotto mi dice: «Aspettaci qui, non muoverti». Dopo 10-15 minuti tornano indietro e la gente mi dice: «Vedi quella nave? È una nave merci, partirà all'1 di stanotte per Olbia. Tu a 10 minuti all'1 ti presenti all'imbocco delle rampe di carico e dici che ti manda il comandante Persini. Buon viaggio, ragazzo, e salutaci la tua ragazza». Io, per la verità, fino all'1 di notte il dubbio che mi avessero perculato ce l'ho avuto, ma quando il camallo davanti alle rampe, sentito che mi mandava il comandante Persini, quasi mi propone di portarmi lo zaino, ho capito che ero di fronte ad una di quelle cose che non hanno prezzo, di cui ogni tanto si sente parlare. Soprassiederò sulla mancanza del frigobar in cabina, ma in compenso vi giuro che svegliarsi e vedere la rada di Olbia fuori dall'oblò è stato in me come uno dei ricordi più belli di tutta la mia vita. Quando questi poliziotti mi dicono: «Vedi quella nave là in fondo?» A me sembrava una petroliera, una roba infinita. Aveva delle dimensioni veramente incredibili. E quando sono salito a luna veramente di notte, i camionisti mi hanno detto: «Oh, guarda, infilati nella prima cabina che trovi e mettiti a dormire». E alla fine è stata veramente una delle cose più belle. Svegliarsi al mattino, vedere il chiaro, guardare fuori dall'oblò, e stavamo entrando in Olbia. È stata una sensazione veramente incredibile di aver fatto una cosa che era impossibile a tutti. Ognuno di noi vorrebbe avere un piccolo spazio nella storia. Il mio è quello di essere il primo turista al mondo che viaggia in nave stop. Dopo lo sbarco ad Olbia, riparto ovviamente in autostop in direzione nord ed il passaggio me lo offre un ragazzo sardo che parla in sardo, ma sardo, talmente sardo che nelle 2 ore di viaggio ha tenuto un monologo ininterrotto ed io non ne ho capito nemmeno l'argomento. Una volta giunto a Palau, mi consigliano di prendere una corriera che, dopo non ricordo bene quanto tempo, mi scarica davanti all'ingresso di Costa Paradiso. Obiettivo raggiunto, ho pensato. Peccato che la fermata del pullman fosse all'inizio del comprensorio e che ci fossero circa 8 chilometri da fare a piedi prima di raggiungere la prima casa di Costa Paradiso. Non nascondo che dopo un simile viaggio iniziato più di 30 ore prima, intravedere l'Alfa Sud giallo taxi del nonno di Simona, parcheggiata lì davanti, mi ha fatto godere parecchio, benché fossi fisicamente distrutto. Aver trovato la casa dei nonni di Simona quasi subito, considerata la vastità del comprensorio e lo smisurato numero di case, avvalla il mio convincimento che un'entità ultraterrena guidasse dall'alto il mio cammino. La stanchezza per il viaggio era mitigata dal pensiero che mi sarei potuto finalmente riposare, magari un paio di giorni, ma la vita ti insegna spesso che è meglio non dare per scontate alcune cose. «Buongiorno signora, sono Aldo», dissi, «un amico di Simona. Passavo da queste parti e ho pensato di venirla a salutare». Ora, io non so come la nonna di Simona possa avere pensato che io passassi da là per caso, ma la sua risposta mi ha veramente piegato le gambe. «Mi dispiace, Simona è in spiaggia, ma tu sembri stanco. Entra a bere un bicchiere d'acqua, così poi puoi ripartire». I'm walking back to Georgia and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hard loving Georgia girl. Mm-hmm. Barra dritta si intitola la puntata di oggi e come ho già anticipato in apertura ne approfittiamo perché oggi è l'anniversario di un avvenimento per quanto riguarda la marineria italiana drammatico, perché il 10 aprile di 29 anni fa avveniva uno dei più grandi disastri della marineria italiana, quello della Moby Prince. Noi però che amiamo sempre mettere insieme storie molto diverse, abbiamo deciso di raccontare in questa puntata, oltre alla storia della Moby Prince, la storia di Aldo, che è una storia che risale a 34 anni fa, perché era il 1986, ed è una storia che in qualche modo ha contribuito a renderlo la persona che è oggi. Pronto Aldo, buongiorno. Sì, ciao Matteo, ciao. Senti Aldo, 34 anni fa, eri una persona diversa da come sei oggi, oltre al fatto che eri un ragazzino? Cioè, eri ancora oggi andresti in giro in autostop, intendo dire. Ma guarda, lo spirito non è cambiato, per quanto mio ci andrei veramente, sarei ridicolo per un cinquantenne, però io ci andrei. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto autostop, Aldo? Guarda, era gli anni del liceo, più o meno, nell'89, una roba simile, 88-89, adesso vado a memoria, erano quegli anni in cui ho finito il liceo, e per me era un mezzo di locomozione abituale l'autostop, quindi... ci andavo a scuola io tante volte in autostop, mi risparmiavo l'abbonamento dei mezzi, certo. Ma ad esempio era una cosa che raccontavi in autostop. Lo raccontavi ai tuoi genitori a casa oppure lo facevi di nascosto? No, lo facevo senza raccontarlo. Magari ogni tanto lo scoprivano, ma era un'epoca veramente diversa, quindi... Ma poi ho sempre avuto la fiducia dei miei genitori, io non ho mai nascosto più di tanto le cose e loro non si sono mai preoccupati, sono sempre stato abbastanza sgamato. Senti, comunque devo dire che appunto questo spirito la dice lunga su quello che ti è successo quell'estate, perché frequentavo quei luoghi perché ho fatto 15 estati della mia vita all'Isola d'Elba e quindi mi ricordo bene il porto di Piombino, mi ricordo bene il trenino che arrivava e arrivava praticamente sulla banchina, e quindi ti ho visto là, no? Cioè seduto lì a dire mo cosa faccio, devo andare a Civitavecchia. Senti, quando passano i poliziotti o carabinieri? Erano polizia, giusto? Poliziotti. E ti danno questa indicazione, il comandante Persini, abbiamo capito chi fosse? No, io, ma credimi, cioè, il dubbio che mi avessero preso per il culo c'era, perché è una roba veramente fuori da ogni logica che un poliziotto ti dica di imbarcarti su una nave merci, cioè sono di presa un po' per il fondelli. Sì, un po' sì. Quindi il dubbio l'ho avuto veramente fino all'una di notte. Ma tu avevi una cabina, Aldo? Ti avevano dato una cabina? No, non mi avevano dato una cabina. Io sono salito così, alla buona, proprio. Okay. E poi i camionisti mi hanno detto, guarda, prenditi la prima cabina libera, entra e vai a dormire. Non avevo un biglietto io. Cioè, certo. È una certo. cosa incredibile anche quella. Cioè, al giorno d'oggi pensiero di fare una roba così. E quindi alla fine l'hai trovata? Cioè hai trovato un letto dove dormire? Sì, io sono salito e c'erano solo camionisti praticamente, i passeggeri erano solo camionisti e c'era il barettino aperto mezz'oretta, tempo che la nave partisse, e poi tutti sono andati a dormire, cioè tutti se ne andavano verso le loro cabine, loro sì, le avevano. E l'arrivo in Sardegna, beh, a parte che è bellissima la tua descrizione dell'alba, la rada, insomma chiunque abbia preso un traghetto per la Sardegna, un traghetto notturno, sa che meraviglia è arrivare alla mattina e vedere la Sardegna, un'immagine indelebile, e sentire... il profumo della macchia che arriva, insomma, è davvero... Poi in questo periodo in cui siamo tutti fermi, bloccati in casa, potersi immaginare su un traghetto sembra davvero un miraggio. Senti, poi tu arrivi a casa dei genitori di Simona, alla fine poi l'hai recuperata Simona, giusto? Sì, per forza, perché cioè, dopo più di 3 ore io ero stremato, già ero magrissimo, ma veramente ero stremato, avevo mangiato un panino in 36 ore, e poi ero anche piuttosto determinato, quindi sua nonna che mi dice beviti un bicchiere d'acqua così poi te vai, insomma... Forse è meglio se la va a chiamare Simona, perché... Il tasso di avventura di una storia come questo, che sembra basso perché appunto dici vabbè sì hai preso una nave, sì ok, poi in realtà è altissimo perché non sai dove sei, non sai dove stai andando, nessuno sì. sa dove ti stai spostando, quindi è davvero una storia che rispetto a dove la collochi nel tempo... Non avevo nemmeno l'indirizzo di Simona, non avevo nemmeno l'indirizzo, cioè questa è una roba incredibile, e ho scoperto lì che Costa Paradiso, cioè è una mezza cittadina, cazzo, ci avrà centinaia di case, e l'ho beccata praticamente subito, aiutato molto dall'Alfa Sud giallo taxi di suo nome. L'Alfa Sud è un'altra immagine bellissima. Senti, prima di salutarti, Aldo, che fine ha fatto poi Simona? Hai avuto notizie, insomma, siete rimasti in contatto? Ho avuto notizie abbastanza recenti, perché poi me la sono sposata e sono ma è fantastico, ma è ancora più bella questa storia. E tua moglie? E avete figli? Sì, abbiamo due figli. Ah, vabbè, ma quindi ce l'avete ancora in Costa Paradiso? Avete ancora quella casa? No, quella casa non c'è più. Ti dico, in Sardegna ci sono andato ancora 2 o 3 anni e poi non ci siamo più andati per altri motivi. Però la nostra vita è continuata insieme a quella strada lì, alla fine. Quindi è servito sto viaggio alla fine. Senti, Aldo, tu sei della zona del Bresciano, giusto? Dico bene? Sì, sono sul lago di Garda. Com'è adesso la situazione? Tutti in casa, ovviamente, come? Guarda, qui da noi tutto sommato sul lago è sempre stato un po' meglio che Brescia città. Brescia città è veramente un morale a terra. Vabbè, però viviamo chiusi in casa, certo, noi. Certo. Aldo, nel frattempo io, insomma, augurandoti il meglio, come auguro a tutti, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata, e quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo. Mi ha fatto molto piacere, perché mi piace un sacco la vostra trasmissione. Fantastico, mi fa molto piacere. Aldo, grazie mille, in bocca al lupo, a presto, buona giornata. Ciao. Linee d'ombra. La puntata di oggi si intitola Barra dritta, soprattutto perché contiene la storia di quello che è accaduto 29 anni fa, esattamente in questo giorno, il 10 aprile del 1991, alle 10:25 di sera. Quello che è passato alla storia come il più grave incidente della marineria italiana. È la storia del traghetto Moby Prince. Noi l'abbiamo letta sul sito dell'associazione dei familiari delle vittime, si chiama Associazione 10 Aprile, una onlus creata proprio dai familiari delle persone che sono scomparse su quella nave. E questa è la loro storia. State con noi. Porto di Livorno, mercoledì 10 aprile 1991. Sono da poco passate le 21 quando la telecamera di Angelo Canu, agente di polizia penitenziaria di 28 anni, sta riprendendo la moglie e le loro due bambine all'interno del bar di prua della nave traghetto Moby Prince, l'ammiraglia della flotta Navarma Lines, che meno di un'ora dopo dovrebbe lasciare la banchina Calata Carrara numero 55 e portarli ad Olbia, in Sardegna. Sara, 5 anni, si muove agilmente tra i tavoli del salone del bar e si avvicina al papà, incuriosita da quel nuovo giocattolo appena acquistato dalla famiglia. Ilenia, invece, la sorellina più piccola, di appena 15 mesi, se ne sta tranquilla in braccio alla mamma Alessandra Giglio. Sono partiti poco prima da Pisa, dove Angelo lavora, per andare a trovare i nonni a Burgos, provincia di Sassari. Per Ilenia sarà la prima volta, ed anche la piccola Sara non vede l'ora di iniziare questa avventura. Seduti ai tavoli vicini a loro ci sono altri passeggeri. C'è chi è intento a fumare, chi a sorseggiare una bibita, chi ad osservare le immagini trasmesse dal monitor della televisione. Ma nel complesso il bar non è per nulla affollato. La Moby Prince è una bella nave, in grado di accogliere 1590 persone e di trasportare comodamente nel suo vano garage, che la percorre da poppa a prua, 360 autoveicoli. Nel labirinto di cabine al suo interno trovano posto una discoteca, 2 boutique per lo shopping, un ristorante, un self-service, sala videogames e 2 sale con poltrone reclinabili, per chi preferisce una sistemazione più economica rispetto alle cabine. Ma in quella che sarà la sua traversata numero 19 nella stagione, lascerà Livorno per un viaggio di una decina di ore, con non più di una 70 di passeggeri ed una 30 di mezzi. I marinai sul ponte auto non hanno molto da affannarsi, il carico è davvero scarso rispetto ai ritmi a cui devono sottostare nei periodi di punta in estate. A bordo si respira un'aria rilassata, quell'aria di festa che accompagna ogni partenza di un traghetto verso le vacanze, che accompagna anche chi, come Giovanni Filippeddu e la moglie Maria, sta rientrando a casa ad Arzachena dopo una visita al figlio che frequenta l'università in Toscana. A trasportare quella fetta di civiltà, che si sposterà sulle onde del Mar Tirreno, in plancia di comando c'è il comandante Ugo Chessa, 54 anni, sardo anche se nativo di La Spezia, pronto ad impartire gli ordini. Chessa è un vero lupo di mare, famiglia di marinai con alle spalle ogni tipo di esperienza in mare, dalle navigazioni oceaniche di lungo corso a quelli con mari agitati e nebbie fittissime del nord Europa. L'ordine, che tutto è pronto per la partenza, arriva poco dopo, alle 22:03. Chessa lo riceve via radio. chiede i comandi alla sala macchine e dopo averli ottenuti inizia a manovrare. Traveling so far, burning at first like a shooting star. Cruise, I feel sure that your song will be sung and will ring in the ears of everyone. Saving our children, saving our land, protecting us from things we can't understand. The love that you radiate will keep us warm and help us to weather the storm. Cruise, you have taken me in, and just when I've got you under my skin, you start ignoring fears I have felt, 'cause you know you can always make my poor heart melt. Please don't take what I'm saying amiss or misunderstand at a time such as this, 'cause if such close friends should ever La nave lascia la banchina e prende la via del mare verso la Sardegna. Alle 22:25 minuti il marconista della nave, Giovanni Battista Campus, si congeda da Livorno Radio. Sul canale 16 si sente la frase «Chi è quella nave?». Poi, dopo, il nulla. A 2,5 miglia dal porto di Livorno sta avvenendo la più grande tragedia della marineria italiana in tempo di pace. La Moby Prince sta entrando in collisione con la super petroliera italiana Agip Abruzzo, un gigante di 280 metri, carico di 82.000 tonnellate di greggio crudo. Sono le 22:25 di quella notte e sulle due navi scoppia l'inferno. Il boato è forte come un terremoto, viene udito in tutta la nave e lo stridore delle lamiere delle due navi che si accartocciano l'un l'altra mette i brividi. Al marconista, Giovan Battista Campus, viene immediatamente dato l'ordine del comandante Chessa di lanciare l'SOS, ordine che Campus esegue all'istante. Siamo incendiati! Siamo incendiati! Sei venuto alle nave addosso! Sì, sì, attenzione! Presto, presto, elicotteri, qualcuno! Ma sul canale 16, né terra con Compamare e Livorno Radio, né le altre navi in rada o in navigazione nei dintorni sembrano accorgersi del drammatico appello, nonostante siano perfettamente udibili il nome del traghetto e il Mayday, ripetuti per 3 volte, come da procedura. Il petrolio fuoriesce dallo squarcio sulla fiancata destra della Agip Abruzzo e si riversa sulla nave passeggeri, sulla Moby Prince. Le due navi sono avvinghiate e il comandante Chessa, giustamente, non dà l'ordine di macchine indietro, perché sa che la situazione potrebbe peggiorare. Per qualche motivo, però, dopo alcuni minuti, le due navi iniziano a staccarsi. Le lamiere continuano a sfregare fra loro, provocando scintille che innescano il greggio e per il traghetto passeggeri, che inizia i suoi tragici giri andando alla deriva in fiamme, comincia la fine. Alle 22.31 il comandante Vito Cannavina della AGIP Napoli, accortosi dell'impreparazione con cui hanno reagito in capitaneria di porto, sei minuti dopo le prime richieste via radio, specifica in modo tale che non ci dovrebbero essere più molti dubbi su quanto stia avvenendo nel tratto di mare di loro competenza e sulla necessità urgente di un intervento di soccorso. Con Pamara Livorno, AGIP Napoli. La Abruzzo si è incendiata e probabilmente anche la nave in collisione che gli è andata addosso è in rada a Livorno. Bisogna far uscire immediatamente i mezzi antincendio. Incendio a bordo! Mi ritrovate, voi mi chiamate incendio a bordo, qui a Compamare di Reggio, cambio. Irrata a Livorno, irrata a Livorno! Irrata a Livorno! Livorno si vede con gli occhi, incendio a bordo! No, basta che uscite fuori, vedete le fiamme, incendio a bordo! Si è venuto, ma chi era la insediata? E qua adesso è un macello. Poco dopo, un ulteriore dialogo tra AGIP Abruzzo e Capitaneria di Porto ribadisce ulteriormente la situazione. Allora, noi la nave che ci è venuta addosso non vediamo né nome né niente. Voi a che punto siete? Ho fatto uscire i vigili del fuoco, sto cercando di far uscire i pompieri, i rimorchiatori di assistenza, cioè sto cercando di farli uscire tutti. E guardi che l'incendio è grosso, dicono, eh? Ricevuto, ma chi è la nave incendiata? Chiedono da Livorno. Qua adesso è un macello, rispondono. Bene, ho capito, Abruzzo, d'accordo. Sembra una bettolina, dicono. Quella che ci è venuta addosso sembra una bettolina. La Moby Prince intanto vaga in fiamme senza che nessuno se ne preoccupi. Nemmeno Livorno Radio, che dopo aver avvisato la capitaneria dell'incidente alla petroliera alle 22.26, un minuto e mezzo circa dopo il mayday del traghetto, l'aveva chiamata con l'operatore Giancarlo Savelli, senza però ottenere risposta, lasciando nella traccia audio un interrogativo che a chi lo ascolta ancora oggi mette i brividi. Moby Prince, da Livorno, mi ricevi? Silenzio, nessuna risposta. Finalmente, dopo aver visto i razzi, alle 23.05, 40 minuti dopo la collisione, i primi mezzi arrivano sotto bordo alla AGIP Abruzzo, la petroliera in fiamme, e cominciano a spruzzare acqua e schiumogeno sulle fiamme che invadono il lato di dritta del castello di Poppa. L'equipaggio della AGIP Abruzzo sale su una lancia e abbandona la nave intorno alle 23.40, ed è allora che in maniera quasi spettrale la seconda nave spunta dalla coltre di fumo che avvolge tutta la zona. Finalmente una motovedetta della capitaneria si avvicina, compie due giri intorno alla nave e al secondo passaggio, sulle ringhiere del ponte di Poppa, le luci illuminano un uomo. È un giovane mozzo, si chiama Alessio Bertrand, di Ercolano. Si trova appeso alla ringhiera del parapetto a Poppa, ha fischiato, ha chiamato aiuto, ma non era giunto nessuno fino a quel momento. Poi, dal mare, una voce gli grida di buttarsi, lo chiama. La paura però lo blocca perché può finire risucchiato dalle eliche o sbattere sul ponte e morire così. Quando si decide, si lascia andare e dopo aver perso per un attimo i sensi, si risveglia sulla barca degli ormeggiatori del porto. L'ormeggiatore Mauro Valli chiede al naufrago che nave siano e la risposta gela il sangue. Valli ed il collega Walter Mattei si guardano e poi alla radio, con voci disperata, dicono: la nave è la Moby Prince, la Moby Prince. Di lì a poche ore sorgerà il sole. We packed our bags and said farewell and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea, forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of home. The sea was rough and felt unknown. Escaping shores of lunacy. Dawn, light, twilight, infinity. Can we keep our bearings straight? Blown off course. Are we instruments of fate? Or do we really have a choice? voice whispers in the gales, like into songs and shattered tales, where krakens raging in the sea crack shapes into a million pieces. Or can we keep our bearings straight? Or will we be blown off course? Are we instruments of fate? Or do we really have a choice? L'incredibile, la davvero incredibile, tristissima e assurda storia della Moby Prince, del disastro della Moby Prince, risale al 10 aprile del 1921. Noi questa ricostruzione l'abbiamo presa su questo sito che si chiama mobyprince.it, che è un sito che è curato ed è gestito dall'associazione 10 aprile, che è una onlus creata appunto dai familiari delle vittime. Quella è veramente un angolo della storia della marineria italiana incredibile, il più grande disastro della marineria italiana in tempo di pace. Sono morte 141 persone, 65 membri dell'equipaggio e 76 passeggeri, e c'è stato solo un superstite, che era quell'Alessio Bertrand, quel mozzo che è rimasto aggrappato alle ringhiere della poppa della nave ed è riuscito in qualche modo a salvarsi. Tutti gli altri invece sono morti. C'è una causa in questo momento, c'è stata una commissione parlamentare, insomma una vera verità, se ha senso definirla così, non è mai venuta fuori. C'è in questo momento una causa che è stata intentata proprio dall'associazione, cioè dai familiari delle vittime, contro lo Stato. Doveva esserci un'udienza al Tribunale di Firenze questo 26 di marzo, che credo sia andata evasa, proprio perché appunto anche a causa dell'emergenza sanitaria anche i lavori dei tribunali sono stati dilazionati, e questa è la motivazione. Abbiamo citato i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa sulla base delle evidenze scaturite dal lavoro della commissione parlamentare riguardo alla mancata azione di controllo sul porto di Livorno e all'omissione dei soccorsi alla Moby Prince da parte degli organi competenti. Insomma, questa storia, con tutti questi anni di distanza in mezzo, ancora non si è chiusa, ancora non si è trovato un colpevole, oggi a quasi di fatto 30 anni di distanza. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, i diari della quarantena, le vostre storie quotidiane in questo periodo così strambo, così fuori di sesto, ve le stiamo raccontando grazie a quello che ci state inviando. Una pagina, davvero, basta una pagina, alcune volte anche mezza pagina, per raccontare la vostra realtà. linee d'ombra@radio24.it. Già ieri vi abbiamo raccontato storie di persone che stanno lavorando, e anche oggi continuiamo a farlo. È il diario di un medico che lavora in un pronto soccorso e che ci racconta non solo come va la vita là dentro, ma un pochettino anche come va la vita dentro di lui. Non avrei mai pensato di soffrire di solitudine, la mancanza del contatto fisico, la possibilità di salutare con un abbraccio. Sono sempre stata etichettata come anaffettiva dagli amici, amo stare anche sola per scelta. E invece da 20 giorni mi sembra la cosa più difficile e innaturale del mondo. Da quando Covid è arrivato da noi, ha stravolto la mia vita. Ma non voglio cedere all'ira contro questo virus, perché sono sicura tirerà fuori anche qualcosa di buono, o almeno lo spero. Ogni giorno vado al lavoro sapendo che troverò un ospedale diverso dal giorno prima, con l'ansia di controllare la posta aziendale per avere le ultime indicazioni da seguire. Ma ogni giorno, almeno fino ad ora, mi sveglio felice di non avere febbre o sintomi influenzali che mi costringerebbero alla resa. Non ho paura del virus in sé, nei miei confronti almeno, ma di quello a cui porterà e delle conseguenze che si ripercuoteranno per mesi su tutti noi. Quando varco la soglia dell'ospedale, il primo pensiero è recuperare una mascherina, per lo più a me basta quella leggera, che attualmente è un bene preziosissimo e viene contingentato da personale addetto che lo tiene sotto chiave. Sì, siamo a tanto, sotto chiave, e cerchiamo di farcele bastare. Poi guardo le situazioni e esami sospetti Covid. Da noi fanno le TAC e si arriva anche a 60 al giorno. Li ordino per età e guardo quanti hanno l'età dei miei genitori, quanti la mia, il più vecchio e il più giovane. Ormai è un rituale, non so perché, ma mi rassicura. A volte capita di andare a fare ecografia ai pazienti in terapia intensiva, quelli sani, non isolati, intendo. E allora incontro i colleghi, ma soprattutto colleghe, perché sono tantissime donne, che stanno dando tutto in questo momento. I veri guerrieri in trincea. Cerco di far loro capire che non sono soli, anche se la vera fatica la fanno loro. A volte capita che ti senti sopraffatto da tutto, e allora ti chiudi in studio a liberare gli occhi, a toglierti la mascherina che ti leva il respiro. A volte pensi ai giovani neospecialisti, che sono usciti a novembre e ora sono scaraventati all'inferno. Alcuni lavorano a Cremona o a Piacenza. Vorresti essere lì con loro a rassicurarli, ma sai che se la caveranno e sono il tuo orgoglio. In altri casi il nostro lavoro è ridotto in quantità per le restrizioni agli accessi e perché la gente non affolla più il pronto soccorso con ogni richiesta assurda, ma stare in ospedale è comunque molto dura. Anche a casa però non va meglio, soprattutto se vivi solo, come me, anche se in questo momento è quasi una benedizione. Io ho ripreso dopo tanti anni a guardare la TV, scoprendo anche 1000 canali nuovi. Cerco di evitare i programmi sul Covid, a parte propaganda live. Leggo, sto con la mia gatta, gioco e qualche volta studio un po'. Ogni tanto vado da una mia collega che sta vicino a casa mia e con cui condivido lo studio. Ci concediamo qualche altra partita alla Wii, considerandoci sicure nel bene e nel male, visto che già passiamo molto tempo al lavoro. Poi ci sono mattine come queste, in cui mi sveglio e mi sembra di soffocare. Lo so che non è così, sto bene, ma è come se avessi un peso sul petto. E come me tanti colleghi che sento. Ricevo un WhatsApp da un paziente, mi dice che ci pensa e di non mollare. Serve anche questo. Scendo una lacrima. Mi devo preparare per andare. Andrò a piedi. Mezz'ora di cammino. Ho bisogno di aria. Presto, torneremo tutti a respirare. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Chiudiamo la puntata come sempre con la nostra storia seriale, la storia di Anna Maria, che ci racconta in questa puntata, ci racconta come finalmente attraverso il cibo, attraverso lo studio del cibo, si riprenderà, tornerà a vivere una vita sana e felice dopo aver passato davvero brutta, dopo aver deciso di privarsi del cibo fino quasi ad annullarsi, fino a morirne. Ora fortunatamente quell'idea le è passata e ha deciso di diventare di fatto un'altra persona. Per